Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. La mail unabusoalgiorno@radio24.it, il mio blog Guardie o Ladri lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Ieri parlavamo nuovamente del caso degli emoderivati infetti che hanno portato alla morte in tutto il mondo dagli anni 80 ad oggi decine di migliaia di persone. Migliaia di infettati in Italia e, secondo alcune stime fatte dalle associazioni che stanno seguendo le persone infettate, i morti sono circa 2.600. È difficile una conta precisa, ma questo più o meno è la stima. Purtroppo altri ne moriranno o comunque sono destinati ad essere curati per l'intero arco della propria vita. Ne abbiamo parlato nel luglio 2008, ricorderete, con 10 puntate dedicate a questo tema di approfondimento. Abbiamo ricominciato perché c'è un processo a Napoli che non parte. E come allora siamo partiti con il racconto di Luca Lucente, un ragazzo di Taranto, purtroppo infettato, che ha raccontato la sua testimonianza allora, così come l'ha raccontata alcuni giorni fa, alcune ore fa, posso dire, nei microfoni di Radio 24. Abbiamo nuovamente Luca con noi ospite. Buongiorno Luca. Buongiorno. Vorrei farti una domanda, ma è un caso di male sanità secondo la tua personalissima opinione, maturata in questi anni, e questa mala sanità, se c'è stata, continua, oppure che cosa è stato e che cosa è? In realtà secondo me no, anzi devo dire una cosa, mi sento di difendere paradossalmente il lavoro dei medici che su di me in centri quotatissimi del nord, come anche nel profondo sud, dove fare il dottore è certamente più difficile perché non si hanno questi strumenti che si hanno al nord. Però la cosa che più mi dà fastidio è la leggerezza con la quale alcuni media hanno trattato questo argomento, associandolo alla mala sanità. Sembrerebbe quasi che esistesse una correlazione tra l'imperizia dei dottori che ci hanno curato. Così non è assolutamente. Io devo dire che nel mio caso e nel caso di tantissime altre persone, questo sangue è stato utilizzato esattamente come se fosse un farmaco, come se fosse un'aspirina. E quindi questi dottori che mi hanno curato amorevolmente, mettendo veramente tutto il massimo della loro dignità, della loro professionalità, non hanno nessuna responsabilità. Quindi associare questo scandalo alla mala sanità è sbagliato. E bisogna associarlo alla mala giustizia, al malaffare di alcune case farmaceutiche, a tutto quello che... ma non certamente alla dignità dei dottori che invece al sud lavorano e tentano di curarci al meglio, anche andando contro certe volte l'organizzazione, che è paradossale, però la loro professionalità è indiscussa. Ed infatti ricordavamo, intanto io ringrazio Luca Lucente per quest'ultimo sprazzo di racconto che ci ha voluto dedicare direttamente dagli studi qui di Milano, ricordavamo infatti che quello che chiedono i familiari delle vittime, chi è rimasto ancora ringraziando Dio in vita, è giustizia, non risarcimento, perché non c'è alcuna somma di denaro che sia o sarà in grado di risarcire per le sofferenze subite. Bene, io ringrazio Luca Lucente per la sua testimonianza e ora rimaniamo ovviamente sempre nello stesso argomento, sentendo un altro ospite, un altro testimone. Prima però ricordo ai radioascoltatori che abbiamo cercato, cosa che continueremo a fare perché abbiamo una testa dura, anche la parola del Ministero della Salute. Abbiamo contattato la sottosegretaria Francesca Martini, sottosegretaria alla Salute Lega Nord. È bene anche dire no l'appartenenza politica, perché così almeno si prende una responsabilità collettiva. Tutto tondo, è bene l'onorevole Martini ci ha detto che non parlerà fino a che non avrà nulla da dire. Mi sembra un po' un'autautologia, però questo è. Cercheremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di capirne di più. I microfoni di Radio 24 sono sempre aperti a tutti, quindi insisteremo anche con il Ministero della Salute, che in questo momento non ha nulla da dire. E meno male, sono passati oramai 20 anni e ancora le istituzioni dicono che non hanno nulla da dire. Sentiamo se qualcosa da dire ha l'avvocato Stefano Bertone, che è stato già nostro ospite, dello studio Ambrosio e Commodo, che difende buona parte, diciamo così, delle persone, delle vittime nel processo di Napoli, quindi la parte civile, processo che appunto riguarda gli emoderivati infetti. Buongiorno Avvocato Bertone. Buongiorno a voi. Allora, io direi di partire da delle note di speranza e anche di precisione, di dignità assoluta di Luca Lucente, quando dice: non è mala sanità, siamo d'accordo, è mala giustizia, è malaffare. Allora, a che punto sono le tappe di questa lotta e contrasto alla mala giustizia e malaffare? A che punto è il famoso processo di Napoli che, ricordiamolo, vede centinaia, decine di migliaia di faldoni trasportati addirittura con dei tir per lo svolgimento di questo processo? Prego, Avvocato Bertone. Dunque, il processo di Napoli non è ancora nella fase processo di Napoli, ma si trova ancora nella fase procedimentale, in quanto con una decisione della dottoressa Di Girolamo del 21 febbraio 2009 è stata disposta, dichiarata la nullità dell'archiesto di rinvio giudizio di tutta la fase processuale che si era svolta nei mesi di novembre e dicembre. Ma, è bene dirlo, questa è una ottima notizia, in quanto per la prima volta dal 1999 si permette alla Procura della Repubblica di Napoli di ripartire da zero e estendere l'indagine a livello di responsabilità e a livello di indagati a livello non solo nazionale ma anche straniero. Ecco, questa è una buona notizia e meno male che almeno si ricomincia da zero, perché probabilmente è meglio costruire da capo che cercare di ricostruire a spizzichi e bocconi con tutte le difficoltà che si sono avute in questi anni. Mi corregga se sbaglio, Avvocato? No, non sbaglio per niente, assolutamente ragione. Ci sono stati fin dalle fasi iniziali del processo a Trento dei grossi problemi dovuti all'erogatore internazionale. C'è stato uno spaccamento del processo in due faldoni, o chiamiamoli filoni, Napoli 1 e Napoli 2, dei quali soltanto il primo, contro alcuni dirigenti di aziende farmaceutiche italiane, è andato poi a dibattimento. Il secondo, contro i dirigenti delle aziende farmaceutiche straniere, è rimasto quiescente, bloccato. Adesso ripartire dall'inizio è una ottima, grande, nonché ultima chance per il sistema giudiziario italiano di assicurare la giustizia ai colpevoli di questi crimini gravissimi che, come ha detto giustamente lei nell'intervista con Luca Lucente, hanno ucciso decine di migliaia di persone nel mondo. Assolutamente. Intanto io dico ai nostri radioascoltatori: seguiteci anche domani, perché domani parleremo di una sentenza abbastanza innovativa. Una sentenza che proviene da un tribunale calabrese di Cosenza, che vede per la prima volta condannato non il ministero al risarcimento del danno, ma la struttura sanitaria locale. Quindi c'è un decentramento della responsabilità. L'emoderivato infetto che ha colpito una persona ha causato un danno. Ebbene, questo danno non deve essere risarcito per la parte economico-monetaria, ovviamente, dal Ministero della Salute, ma dall'ASL. Sentiremo che ovviamente l'ASL farà ricorso in appello, questo ci sta, è logico, però qualcosa si muove anche a livello di sentenze nei vari tribunali. Le chiedo, Avvocato Bertone, una cosa che noi abbiamo già affrontato con lei nei mesi scorsi, ma che rimane un mio pallino fisso. Cioè, c'è il rischio della prescrizione per alcuni reati oppure no? C'è sicuramente il rischio della prescrizione per alcuni reati che abbiano ucciso determinate persone morte oltre una certa data. Non esiste questo rischio di prescrizione a livello generale, per intenderci. Sicuramente il sistema giudiziario italiano e la sua pretesa punitiva riuscirà ad arrivare ad una sentenza definitiva, si spera, di accertamento delle responsabilità nei confronti di questi indagati e di quelli che verranno individuati per la morte di uno o più emofilici, in quanto si tratta di, come sapete, casi che hanno iniziato a produrre i loro effetti dannosi a partire dagli anni 80, persone che sono nate anche nel 79, 80, 81. Ci si attendeva che la loro vita cessasse secondo i canoni Istat nel 2050, queste persone stanno morendo adesso alla mia età, 35, 36, 37 anni, e l'ultimo è morto venerdì sera a Genova, aveva 40 anni, avrebbe dovuto vivere altri 30 anni per colpa di queste persone, è morto 30 anni prima. E chiaramente gli anni della prescrizione nel suo caso non si compiranno mai, perché sono certo che la procura di Napoli arriverà ad una sentenza molto prima. Assolutamente, io sono d'accordo con lei, mi unisco ovviamente nel cordoglio a tutti i familiari delle vittime. Le racconto anche un caso personale: il fratello di un mio caro amico a Latina alcuni giorni fa è morto proprio per lo stesso identico motivo. Quindi la conta dei morti francamente diventa lunghissima. Grazie avvocato Bertone per la sua testimonianza. Io dico grazie in regia a Valeria Bernardi, in studio Laura Faggini. Roberto Calullo vi dà appuntamento a domani. Continueremo ancora a parlare di emoderivati e di sentenze che cercano di colpire gli autori del danno alla salute. Da Roberto Calullo una buona giornata a tutti.